La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. A. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione Europea, diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. B. Immigrazione. C. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. D. Difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi. E. Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici, perequazione delle risorse finanziarie. F. Organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali, elezione del Parlamento europeo. G. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. H. Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. I. Cittadinanza, stato civile e anagrafi. L. Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa. M. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. N. Norme generali sull'istruzione. O. Previdenza sociale. P. Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Q. Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. R. Pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Opere dell'ingegno. S. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, professioni, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette e alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza, la Regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Anche l'articolo 117 è stato modificato nel 2001 ed è oggi noto anche per essere l'articolo più lungo della Costituzione. È un articolo molto lungo perché affronta un tema centrale nei rapporti Stato-Regione. Fino al 2001 l'Italia era uno Stato accentrato e quindi le competenze legislative regionali erano limitate, cioè l'articolo 117 nel testo originario prevedeva soltanto un piccolo elenco di competenze regionali. Con il 2001 invece è praticamente cambiato il mondo. È come se ci fosse stata la rivoluzione copernicana. La legislazione spetta in via esclusiva alle regioni, quindi normalmente dovrebbero essere le regioni a legiferare, salvo per alcune materie più importanti di competenza dello Stato. Ecco allora che l'articolo 117 si incentra soprattutto sui commi secondo, terzo e quarto, che contengono l'elenco di materie. Il comma secondo sono le materie di competenza esclusiva dello Stato e quindi le materie essenziali, fondamentali, la difesa, la moneta, la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, le norme penali, tutta la parte che deve essere necessariamente unitaria. Il terzo comma riguarda invece le materie di competenza concorrente, quindi le materie e gli oggetti che devono essere disciplinati nei principi da parte dello Stato e nel dettaglio dalle regioni, ad esempio la tutela della salute. Ecco ancora che invece il quarto comma prevede che tutte le altre materie siano di competenza regionale. Ovviamente possiamo immaginare bene che poi è diventato molto difficile nel concreto andare a capire quando un determinato oggetto sia di competenza dello Stato o di competenza delle regioni. Faccio un esempio su tutti. Prendiamo lo smaltimento dei pneumatici usati. Non può essere la Costituzione a elencare fra le materie smaltimento dei pneumatici. E quindi allora chi è che deve fare una legge sullo smaltimento dei pneumatici? Apparentemente potrebbe essere la Regione, perché la materia non è elencata fra le competenze dello Stato. Ma tuttavia, se noi ci ragioniamo bene, lo smaltimento dei pneumatici altro non è che una forma di tutela dell'ambiente e la tutela dell'ambiente rientra fra le competenze esclusive dello Stato. Ecco allora che in questi anni si è spesso creato un contenzioso fra Stato e Regioni per definire in maniera esatta quelle che siano le competenze dell'uno e dell'altro. Tutte queste controversie sono finite alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale non solo garantisce che tutte le leggi siano conformi alla Costituzione, ma è anche l'arbitro delle competenze, cioè l'organo che deve decidere se lo Stato e la Regione non hanno le idee chiare su chi debba disciplinare una determinata materia. Per il resto, l'articolo 117 affronta poi il ruolo delle regioni rispetto all'Unione Europea e quindi la partecipazione regionale ai processi di formazione degli atti dell'Unione Europea, affronta la potestà regolamentare delle regioni, perché le regioni emanano anche regolamenti oltre che leggi, ancora garantisce le pari opportunità nelle regioni e stabilisce la disciplina delle intese fra enti territoriali.